Le pietre di Pluinec. C'era una volta, nella grande Francia, una piccola città chiamata Pluinec. Sull'altro lato di Pluinec c'erano due file di enormi pietre. Le pietre erano così alte e pesanti che si ritiene che solo tutte le fate del mondo avrebbero potuto metterle in posizione verticale. Non lontano dal grande viale delle pietre e sulle rive del fiume Intail vivevano un uomo di nome Marzin e sua sorella Rosnik. Rosnik era una ragazza molto carina e veniva trattata come una principessa da suo fratello Marzin, che era molto protettivo nei suoi confronti. Rifiutava tutti i pretendenti che venivano a chiedere la mano di sua sorella in matrimonio. «No, grazie. La mia graziosa sorellina un giorno sposerà un principe, non uno sciocco commerciante di mele». Ma Marzin non era a conoscenza del fatto che Rosnik e il suo amico d'infanzia Bernes erano innamorati. «Come vorrei essere un principe per poter chiedere la tua mano in matrimonio a tuo fratello? Ma ahimè, solo un povero taglialegna». «Bene, perché non dici di noi a mio fratello alla festa di domani?» «Ma...» «Niente ma. O glielo dici tu o lo farò io. Non mi importa delle ricchezze, mi importa di te e basta». Ma...» «Ci vediamo, ciao!» Il giorno successivo ci fu una grande festa a casa di Marzin e Rosnik per celebrare l'inizio della stagione del raccolto. La loro casa era piena di ospiti. Anche Bernes era presente. Rosnik, mentre parlava con uno degli ospiti, fece segno a Bernes di andare a parlare con suo fratello. Ma... Esitante, si avvicinò a Marzin. Quindi, Marzin... Stavo dicendo che... Un mendicante a casa mia? Non sono un mendicante, sono io, Bernes. Non sto parlando di te. Marzin si allontanò e si diresse verso la porta dove vi era un uomo vestito con abiti logori. Tutti nella stanza lo stavano fissando. Tu chi sei? Mi chiamo Dario. Sono un mago e ho viaggiato in tutto il mondo per anni. Ero molto stanco e affamato quando ho visto la tua casa. Per favore, dammi del cibo da mangiare e un rifugio per riposare stanotte. Te ne sarò per sempre grato. Marzin pensò per un po' e poi disse: «Va bene, ti darò cibo e riparo per stanotte. Ma in cambio... voglio che usi la tua stregoneria e trovi a mia sorella un principe da sposare». «Farò del mio meglio». Presto il cibo fu posato sul tavolo e tutti gli ospiti mangiarono fino a che furono sazi. Bernes non ebbe un'altra occasione per parlare con Marzin, il che lasciò Rosnik molto delusa. Quella notte, quando tutti gli ospiti se ne furono andati, a Dario venne data la stalla per ritirarsi. All'interno della stalla c'erano un asino ed una pecora. Va bene, amici. Buonanotte. Dario si sdraiò e chiuse gli occhi. Fuori, la luna piena brillava e una stella cadente attraversò il cielo. In quel preciso istante, l'asino scosse la testa e sorrise di gioia. È finalmente quel periodo dell'anno! Bebe! Possiamo parlare? Dai! Dimmi cosa succede! Non mi va di parlare in presenza di un mago! Che cosa? Lui è un mago? Sì, è un mago! L'ho sentito mentre si presentava a Marzin. Ma lascia che te lo dica, non è un mago molto bravo! E come lo sai? Bene, i maghi sono intelligenti. Questo non è nemmeno abbastanza intelligente da sapere quale fortuna potrebbe avere domani. Un po' di fortuna? Perché? Non lo sai? Una volta ogni 100 anni le pietre di Plonic scendono a bere al fiume. E mentre sono via, i tesori sottostanti rimangono scoperti. Ah, ora ricordo. Ma le pietre ritornano così rapidamente al loro posto che sicuramente verresti catturato e punito da loro, a meno che tu non abbia in mano una mela viola. Sì, ma non è abbastanza. Anche supponendo che tu riesca a metterti al sicuro, il tesoro deve essere raccolto e portato fuori da una persona che non ha mai peccato, altrimenti si sgretolerà in polvere. L'asino stava per dire qualcosa quando all'improvviso si ritrovò incapace di parlare. L'asino si voltò verso la finestra e vide una stella cadente che sfrecciava nel cielo dall'altra direzione. Questo significava che il tempo in cui avevano il permesso di parlare era finito. Chiuse gli occhi e così fece anche la pecora. Ma il malvagio Dario aveva sentito tutto. Semi, ora diventerò l'uomo più ricco di tutta la Francia e sposerò Roznik. Quindi, la mattina dopo, Dario uscì alla ricerca della mela viola. Andò al mercato, nella foresta e nei prati, ma da nessuna parte riuscì a trovare la mela viola. Alla fine, quando si era quasi arreso, si fermò sotto un albero. All'improvviso qualcosa gli cadde in testa. Abbassò lo sguardo e vide che era una mela. E non solo una mela, ma era una mela viola. Oh, gli angeli mi hanno benedetto. Ora diventerò l'uomo più ricco di tutta la Francia. Con la mela in mano, Dario raggiunse il viale delle pietre dove si trovavano le alte pietre. Mentre superava la lunga fila di pietre, vide Bernese lavorare con uno scalpello sulla più alta di tutte. Che stai facendo lì? Oh, signor Dario, ciao! Mi è capitato di non avere lavoro da fare oggi, quindi ho pensato di scolpire un cuore su questa pietra. Immagino che pensi che ti aiuterà a conquistare Roznik. Bernese smise per un momento di fare quello che stava facendo e lo guardò. Ah, quindi lo sai. Sfortunatamente, Barzin vuole un cognato che abbia molte più sterline di me. E supponiamo che io ti stia per dare più sterline di quante Barzin abbia mai sognato. Tu? Sì, io. E cosa devo fare per guadagnare i soldi? Lascia che ti dica che se si tratta di qualcosa di sbagliato, io allora non lo farò. Io sono un uomo di virtù. Questo fece sorridere Dario. Aveva sentito parlare di Bernese dalla gente di Pluinec e di come fosse un uomo onesto e virtuoso. Ma ora era quasi sicuro di avere l'uomo giusto per quel lavoro. Quello che voglio da te è solo un po' di coraggio. Se questo è tutto, dimmi che cosa dovrò fare e io lo farò. Dario si diresse verso Bernese e gli sussurrò il piano all'orecchio. Più tardi quella notte, quando l'ora rintoccò alla grande chiesa di Pluinec, Bernese entrò nel bosco. Trovò Dario già lì, con una borsa in ogni mano e una a terra. Sei puntuale. Dimmi, cosa hai intenzione di fare con tutte le ricchezze? Per prima cosa chiederò la mano di Roznik in matrimonio. E tutto ciò che mi resterà lo darò a tutti i poveri e bisognosi di Pluinec. Bene, allora andiamo a lavorare. Con il primo rintocco di 12, un forte rumore emerse nel bosco silenzioso e la terra sembrò oscillare sotto i piedi dei due osservatori. Un attimo dopo, alla luce della luna, videro che le enormi pietre vicino a loro lasciavano il loro posto e scendevano lungo il pendio che portava al fiume. Sembrava che fosse passata una processione di giganti. Credendolo il momento più opportuno, i due uomini si precipitarono verso i buchi dove il tesoro brillava alla luce della luna. Dario si sedette tenendo aperte le borse e Bernese continuò a estrarre il tesoro e riempire le borse. Ora le due borse furono riempite, rimaneva la terza quando improvvisamente un mormorio basso, come una tempesta lontana, arrivò alle orecchie di Dario. Le pietre avevano finito di bere e si affrettavano a tornare al loro posto. Sbrigati, stanno arrivando! La mia mano è bloccata, aiutami! Oh, sciocco, è troppo tardi! Abbi cura di te, amico mio! La mia vita è preziosa! Grazie per le ricchezze! Ciao! Che cosa? No! Dario, con le due borse, iniziò a correre, quando improvvisamente inciampò e cadde. Le borse volarono in aria e caddero dietro un cespuglio. Proprio in quel momento la pietra più alta passò davanti a Dario e si fermò di fronte a Bernese, in modo che nessun altro potesse oltrepassarlo. Era la pietra su cui Bernese aveva scolpito il cuore. Nel frattempo le altre pietre circondavano Dario. Non potete farmi del male, oh, la mela viola! Questo non è mela, questa è mela cotogna, sciocco! E poi tutte le pietre lo circondarono. No! Dario subito venne trasformato in polvere. Nel frattempo l'altra pietra stava parlando a Bernese. Tu sei un bravo uomo, meriti di vivere. Corri prima che arrivino i miei fratelli. Ma la mia mano è bloccata. Non più. Ed era proprio così. La mano di Bernese non era più bloccata. Si alzò subito. Mille grazie. Non c'è bisogno di ringraziarmi. Mi hai dato un cuore. Sto solo pagando il favore. Ora corri. Oh, e non dimenticare i tuoi sacchetti di tesori. Ma non sono miei. Bernese abbassò la testa. Li ho presi da qui. Sei onesto. Ti dico una cosa. Ora le borse sono tue. Adesso vai. Subito. Bernese sorrise e fuggì. Quando finalmente tutte le pietre avevano ripreso i rispettivi posti e si erano sistemate, Bernese raccolse le borse che giacevano dietro il cespuglio e tornò a casa. Il giorno successivo Bernese andò a incontrare Marzin e gli raccontò tutto quello che era successo. Rosnik e Marzin erano scioccati. Quel mago cattivo voleva sposare mia sorella? Beh, non ha senso parlare del passato. Ha avuto quel che meritava. Sì, e ho anche capito che solo le ricchezze non possono comprare la felicità di mia sorella. Mi dispiace, bambina mia. Va bene, fratello. Hai fatto ciò che avrebbe fatto qualsiasi fratello. E tu, Bernese, non sapevo che tu e mia sorella foste innamorati. E, ad essere sincero, sono contento di non averlo saputo, perché non l'avrei mai permesso. Ma ora posso vedere oltre la mia cecità. Sei un brav'uomo, Bernese, e soprattutto un onesto. E così Rosnik e Bernese si sposarono con una grande cerimonia. Marzin era molto contento di aver finalmente trovato la persona adatta per sua sorella. Ma indovinate chi era più felice? Ah, bello! Chiacchiere in pieno giorno! Dai, il via alla festa!